24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:32 minuti, buon venerdì e buon venerdì 7 maggio. Finiamo la settimana con 24 mattino in diretta fino alle 9. Allora, oggi parliamo di politica nel nostro sondaggio. Le inchieste che prima hanno coinvolto Scajola, non indagato ma si è dimesso per la casa, poi ora Verdini e Berlusconi che dice i soliti magistrati politicizzati. Che ne pensate? Siete d'accordo? Colpa di una magistratura politicizzata? Di questo parliamo oggi, dovete votare su radio24.it, bianco o nero, ne parleremo alle 8:30 e ora andiamo a scoprire i giornali oggi in edicola. In primo piano. È la situazione finanziaria, dalla Grecia alla tensione dei mercati che domina le prime pagine dei giornali. Il Sole 24 Ore, banche sotto pressione in borsa. Per Repubblica, paura per le banche, crolla la borsa. Il Corriere della Sera, la paura fonda i mercati, scoppia il caso Moody's. Insomma, è un po' così ovunque. C'è l'Unità che mette in prima pagina spremuti, la nuova stangata, una manovra da 25 miliardi costerà altri sacrifici al paese, per il Riformista addirittura è assalto all'Italia. Cito solo per la vicenda casa che continua, la casa e i politici, il giornale ha una novità, il sindacato pagava la casa a Bersani quando era vicepresidente dell'Emilia-Romagna, poi vedremo di che si tratta. Allora, come detto, la situazione finanziaria. Intanto Moody's, l'agenzia di rating, ieri, come possiamo scoprire a pagina 2 del Sole 24 Ore, ha lanciato l'allarme. Il rischio contagio ora è esteso all'Europa. Ne scrive Moria Longo: le banche in Grecia, Portogallo e Italia soffrono per colpa delle pressioni che stanno subendo i loro stati. Le banche di Spagna, Irlanda e Gran Bretagna soffrono invece per problemi propri, che si sono però estesi agli stati che le hanno salvate. Insomma, da un punto di vista o dall'altro, il contagio è ormai esteso praticamente in mezza Europa. Questo è l'allarme di Moody's, ovviamente, che ha rilanciato una risposta da parte della politica italiana, ma l'agenzia americana ha lanciato in uno studio un vero e proprio De Profundis per le finanze di mezza Europa. La reazione di Banca Italia è stata abbastanza gelida, racconta Rosella Bocciarelli, vale a dire il sistema bancario italiano è robusto, il deficit di parte corrente è basso, il risparmio è alto, il debito complessivo di famiglie, imprese e Stato è basso rispetto ad altri paesi, il debito netto nei confronti dell'estero è basso, tutto ciò rende il caso dell'Italia diverso da quello di altri paesi. Questo è il comunicato alle 12:46 di ieri mattina, ma certo il panico, il timore c'è. Cosa è successo per esempio ieri alla borsa di Wall Street? Sentite cosa ci racconta Mario Platero a pagina 5. È successo che un trader in un pacchetto di azioni, di una vendita, un ordine di vendita di pacchetto di azioni che includeva Procter & Gamble, uno dei colossi del grande consumo americano, che ha fatto? Invece di scrivere 16 milioni di dollari con la M di milioni, ha scritto 16 miliardi, cioè con la B di billion, è diventato 16 miliardi di dollari, cioè ha sbagliato, proprio un errore di computazione, un trader, una persona, uno che ha sbagliato, ha scritto la B invece che la M. La borsa è stata per vari minuti nel panico. Il titolo è crollato, di colpo sono crollati, il titolo è crollato di 40% di Procter & Gamble in pochi minuti. Tutti i traders a chiedere che sta succedendo, questo è il tracollo. Procter & Gamble, tra l'altro, ha risolto un titolo molto solido. Al che lo Standard & Poor's in pochi minuti è crollato fino al 9%. Ma panico totale nella borsa, è durato 15 minuti, poi all'inizio la banca, la Citi, che era quella incriminata, quella a cui apparteneva questo trader che ha sbagliato, prima ha smentito, poi le parziali ammissioni, poi insomma le ammissioni, è stato un errore a scrivere una M, una B invece che una M, cioè è stato messo billion invece che million e da lì è successo il putiferio per pochi minuti. Questo fa capire un po' il clima. Ieri il ministro Tremonti è andato in Parlamento a parlare dicendo nessuno immune, ma insomma rassicurando, come ha detto qualche parlamentare che lo ha affiancato con una metafora alpinistica, siamo in parete ma stiamo meglio degli altri. Però certo Tremonti ha detto nessuno è immune e ha annunciato questa manovra da 25 miliardi in 2 anni. Tra l'altro La Stampa in prima pagina fa un corsivo che non è firmato: l'onorevole non ha tempo per la crisi. Sapete quando ieri, insomma, c'era Moody's che sembra voler declassare l'Italia, Atene brucia e si sa, e non è una metafora. Poco prima delle borse che stavano subendo questo tracollo temporaneo per questo errore a Wall Street, questa è la situazione. Tremonti va a parlare della situazione italiana, insomma, quindi ci sarà un Parlamento affollato con grande attenzione. Ebbene, deserti i banchi del Parlamento: 2 della Lega, 3 del PDL, 40 del PD, 10 dell'UDC, 2 dell'Italia dei Valori. Cos'era successo? Scrive La Stampa. Nulla. Semplicemente alle 12.30 del giovedì era finita la seduta del mattino, al pomeriggio non si votava e dunque la settimana del parlamentare è finita. C'è l'aereo da prendere. Quindi l'onorevole non ha tempo per la crisi. Il tema era discretamente importante, ma insomma c'era un aereo da prendere altrettanto importante. Allora, c'è molto anche delle elezioni inglesi, come abbiamo sentito anche nel GR della nostra Giorgia Scaturro. Cameron ha vinto, però ha vinto come maggioranza relativa, non c'è però una maggioranza assoluta. Tra l'altro, per il sistema britannico questo vuol dire che il premier uscente Gordon Brown, che non ha vinto in termini relativi, in termini assoluti, ma è arrivato secondo come laburisti, ha però il diritto come primo a tentare di formare un governo di coalizione con chi? Con i Lib Dem, no? Che sono la terza forza emergente. È una situazione di stallo incredibile. Tra l'altro la Gran Bretagna non è abituata a queste situazioni di stallo, c'è sempre un partito più o meno che ha la maggioranza assoluta. Sentivo che dal 74 che non c'era una situazione del genere, cioè con un partito che non ha la maggioranza assoluta. Che succederà? Intanto ce lo spiegherà forse Oscar Giannino alle 9. Oscar Giannino si occupa di questo e vedremo. Ci spiegherà i vari scenari ipotizzati sulle situazioni sulle elezioni in Gran Bretagna. Voglio andare alla politica italiana perché intanto il tema del nostro sondaggio, come detto, basta leggere pagina 5 del giornale: PDL in ansia, dietro le toghe i poteri forti. Torna questo tema annoso, da Tangentopoli ce lo trasciniamo, non ce ne liberiamo più. L'idea che ci siano i magistrati che fanno degli interventi, insomma, ad orologeria, mirati. Ieri Berlusconi ha detto appunto: non c'è congiura, non c'è complotto. Non ho mai usato questa parola, smentendo le indiscrezioni che gli avevano attribuito questa frase il giorno prima. Però ha detto: certo, siamo alle solite. Ci sono dei magistrati politicizzati che fanno delle inchieste a orologeria. E questo è un po' il clima che secondo molti giornali serpeggia all'interno della maggioranza. Berlusconi, tra l'altro, preoccupato, cerca la tregua con Fini. Questo è un altro tema che troverete sviluppato sui giornali e nei vari commenti. C'è poi tutta la vicenda dell'inchiesta. Ah, ecco, a questo proposito sentite Giampaolo Pansa cosa scrive in prima pagina di Libero. Tira un'aria peggio di Tangentopoli, peggio. La prima Tangentopoli schiantò la casta dei partiti. La corruzione che emerge ora sembra invece diretta al finanziamento privato di questo o di quel boss partitico. E conclude Giampaolo Pansa, pagina 3, lo spettro di una nuova Tangentopoli potrebbe farsi concreto. Non sono un pazzo, non me lo auguro, ma confesso di essere spaventato. Anch'io ho visto in TV le fiamme di Atene, ho sofferto per i 3 greci bruciati vivi nel rogo di una banca assalita dalle Molotov, a colpi di Molotov. Ricordiamoci di quel rogo e affidiamoci al Padre Eterno. Ultimamente Pansa è molto, molto pessimista nei suoi articoli. Per quel che riguarda le inchieste, le inchieste. Intanto quella che vede coinvolto, appunto, indagato Denis Verdini per corruzione, per alcuni appalti che sarebbero stati pilotati sul settore dell'energia eolica in Sardegna. Oggi Giovanni Bianconi, a pagina 16 del Corriere, scrive qualcosa di più. Al telefono con il faccendiere, così Verdini pilotò la nomina. Che cos'è l'accusa? Dovevano fare in modo che al vertice dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Sardegna, l'ARPAS, andasse un uomo di loro fiducia, in modo da veicolare decisioni, influenzare scelte. L'uomo scelto sarebbe stato questo Ignazio Farris, che è diventato poi direttore generale dell'ARPAS nell'agosto scorso per decisione del presidente della regione Cappellacci. E da qui, insomma, questo, scrive Bianconi, si sarebbe scoperto leggendo tutte le varie intercettazioni o comunque vedendo stralci delle intercettazioni che, ricordiamo, coinvolgono principalmente anche questa figura. Flavio Carboni, influente uomo politico che non ama essere definito faccendiere, come scrive Bianconi, da anni si trova, come raccontavamo ieri, coinvolto nelle più diverse disavventure giudiziarie a cavallo tra la prima e la seconda Repubblica. Per quel che riguarda invece l'inchiesta della casa di Bersani, scusate, la casa di Scajola, lapsus, perché tra poco arriviamo al giornale che parla della vicenda della casa di Bersani invece. Come detto, c'è il ministro Lunardi, l'ex ministro Lunardi, che fa un'intervista a Repubblica, perché è quello, è accusato di avere preso alcune buste tra lui o sua figlia che l'autista tunisino di Balducci gli portava. Ieri Lunardi l'ha definito un ubriacone, un drogato, a date retta a quello lì. Ebbene, onorevole Lunardi, lei come risponde alle accuse? Chiede Alberto D'Argenio. Vengo tirato in ballo per una vendita e un acquisto di appartamenti, posso provare carte alla mano che ho fatto tutto regolarmente. Poi sull'autista, sull'ex autista di Balducci, ecco, basta andare a chiedere agli autisti del Ministero dei Trasporti, si conoscono tutti, di lui raccontano che era una persona pericolosa, un drogato. Prima di pubblicare le parole di un testimone se ne dovrebbe verificare l'attendibilità. Lunardi dice, proverò tutto, ho fatto tutto in maniera regolare. Risponde in qualche modo a pagina 17 del Corriere della Sera chi? La moglie di Lightben, questo autista, Lightben Idri Fati, questo è il nome completo, intervistata da Alessandra Arachi. Eccolo qua, Cristina Speranza, che vorrebbe per la verità spegnere il telefono e sparire, avvocato cassazionista, molisana di Montefalcone del Sannio. Smettetela di chiamarlo il tunisino. Lightben è mio marito e dunque è italiano a tutti gli effetti. Intanto dice così. E poi a Lunardi, che lo ha definito drogato, ubriacone. Ma come fa Lunardi a parlare di mio marito in questa maniera? Lo conosce per caso? Beh, ha detto di aver preso informazioni. Ah sì, e le informazioni che ha preso l'ex ministro lo hanno portato a stabilire che un uomo drogato e ubriacone è stato messo per anni a fare il lavoro che faceva Lightben, a guidare le automobili su e giù per l'Italia? Era dipendente di Diego Anemone, poi insomma la moglie gli spiega anche il clima, certo adesso ci vorranno distruggere, faranno di tutto per screditarlo, screditarci, era prevedibile, ma lui ha fatto il suo dovere, è stato chiamato dai magistrati, non commento i suoi verbali, quello che ha detto sarà compito della giustizia, ma ogni sua parola, sono certa, corrisponde alla verità. Ora è il momento dunque delle accuse, delle difese, mentre l'inchiesta, il nuovo sviluppo che raccontano sia Fiorenza Sarzanini sul Corriere, sia Carlo Bonini di Repubblica, il superteste racconta, portavo il costruttore Anemone dal cerimoniere del Papa, vale a dire Monsignor Camaldo, che viene ritratto in una foto tra l'altro tra Vittorio Emanuele di Savoia e la moglie e poi in una foto vicino a proprio a Papa Ratzinger, cerimoniere del Papa, così insomma introdussi Anemone nel Vaticano, insomma nelle stanze importanti del Vaticano, in vari incontri col cerimoniere del Papa. In primo piano. E allora, il sindacato pagava la casa Bersani è il titolo, moralisti un tanto al chilo, di apertura del giornale. La vicenda affonda al 1991 e Gabriele Villa la racconta a pagina 3. Un inquilino eccellente, Bersani, un affitto, l'affitto dell'inquilino eccellente, pagato per metà da certi suoi amici della CISL. Questo è il menù che presenta il giornale. La signora Miriana Pirazzoli si ricorda tutto perfettamente, racconta volentieri, con dovizia di particolari, di quei pagamenti del 91, quando le fu chiesto da un parente lontano, Gaudenzio Garavini, di affittare a un amico l'appartamento in via Mazzini 84 a Bologna. 60 metri quadri, l'appartamento, 1 milione di lire al mese per l'affitto. Chi affittò l'appartamento? Pierluigi Bersani. E allora, il contratto, nessuna registrazione del contratto, nessuna denuncia, tra l'altro ora questa signora dice ho peccato di ingenuità, ma dati i personaggi con cui avevo a che fare mi sentivo in una botte di ferro, allora Bersani era il vicepresidente della regione, E questo Gaudenzio Garavini, invece, questo parente della signora che gliel'aveva presentato, faceva parte dell'Istituto Addestramento Lavoratori, un'emanazione della CISL regionale. Bene, non appena Bersani nel 91 comincia ad abitare inquilino in affitto in via Mazzini 84 a Bologna, arrivano i pagamenti tutti regolari, solo che, dice la signora, la cosa che mi sorprese è che metà del pagamento, 500.000 lire, e tra l'altro il giornale pubblica i bonifici, pubblica le foto dei bonifici, 500.000 lire arrivavano da Bersani e 500.000 lire, cioè metà dell'affitto, veniva pagato dalla IAL, appunto dall'Istituto Addestramento Lavoratori. Il giornale si chiede, questo andò avanti per 2 anni, finché una denuncia anonima per questa curiosa regalia all'indomito difensore del proletariato fece finire questa vicenda. Perché per 2 anni, si chiede il giornale, Bersani ebbe l'appartamento in affitto pagato per metà da soldi della CISL e dunque pubblici? Eccolo qui svelato, insomma, il senso di questa inchiesta. Bersani aiutato dal patronato, 500.000 lire al mese per l'affitto. Voglio andare, tra l'altro, fatemi tornare indietro un attimo sulla questione del Parlamento semivuoto, mentre parlava ieri Tremonti, se non tre quarti o cinque sesti vuoto. Il Parlamento lavora sempre meno, è un'inchiesta del Messaggero che trovate a pagina 9, si è elaborata la produttività in termini di leggi approvate da settembre scorso, intanto le sedute con votazione a Montecitorio hanno occupato, indovinate, quante ore settimanali? Voi sparate una cifra. Quante ore settimanali di votazioni? 10 ore alla settimana. Non si è mai andati oltre le 2 giornate e mezzo di lavoro a settimana. 2 giornate e mezzo. Voi che vi state scapicollando per andare a lavorare, vi fa un po' arrabbiare, 2 giornate e mezzo di lavoro. E poi se Tremonti parla giovedì pomeriggio, e mannaggia, c'è questo benedetto aereo da andare a prendere, no? La settimana è finita giovedì alle 12.30. Trovate questa vicenda di cronaca di Fabrizio Della Mora, 54 anni, detto già il Vendicatore, ne parla pagina 5, il Quotidiano Nazionale, io l'edizione Il Giorno, quella, diciamo, del nord di Milano. Fabrizio Della Mora, chi è? È un conducente di auto, che è uno che noleggia auto con conducente, quindi fa 100.000 km all'anno. Come tutti gli italiani, si è accorto che il pieno costa di più, la benzina costa di più. Che ha fatto? Porto la Tamoil in tribunale. Udienza il 9 luglio, un tassista viene definito del posto, vale a dire di che posto? San Severino. In provincia di Macerata, ha deciso: porto la Tamoil in tribunale. Perché la Tamoil? Beh, perché è il distributore dove mi fermo più spesso e quindi ho identificato la Tamoil. Il pieno mi costa circa 25 euro in più rispetto all'anno scorso. Ho contattato anche i consumatori, ma la loro trafila burocratica per me è incomprensibile, dunque li porta in tribunale, al giudice di pace, udienza il 9 luglio. Se vinco, ho chiesto quanto ha chiesto di risarcimento, 1000 euro, una cosa simbolica, e quanto ho speso in più rispetto all'anno scorso per i miei pieni, 1000 euro, ma se vinco avranno vinto tutti gli italiani. Il Vendicatore Fabrizio Della Mora contro la Tamoil. Infine trovate tantissimo, non c'è giornale che non si interroghi sul ma che succede a Totti? Che succede a Totti? Quel calcione a Balotelli, che ora Totti dice ho sbagliato, Balotelli dice mi ha dato del negro di merda, Totti dice pare ieri abbia detto ha offeso un popolo, oggi Massimo Gramellini dice, si chiede ma chi è Totti? Chi è Totti per l'appunto? Quale Totti conosciamo noi? Questo in prima pagina della Stampa, se lo chiede Gramellini. Poi avanti dice la salvezza per Totti sarebbe stata emigrare 1000 chilometri dalle sottane della sua Roma, perché solo lontano da quell'amore che lo vizia e lo giustifica avrebbe potuto diventare finalmente adulto. Invece è rimasto lì e dunque è rimasto fermo allo sputo con cui rinfrescò le guance del danese Poulsen agli europei. Anche allora era stato provocato, ma quanti campioni vengono provocati? L'eroe è tale se sa dominare le sue emozioni. Quanti insulti riceverà Messi in ogni partita? Il capitano della Roma ha preso molto sul serio il ruolo attribuitogli dai tifosi. Lui è il gladiatore di Russell Crowe. A un mio cenno scatenate l'inferno. La differenza, scrive Gramellini, è che l'eroe cinematografico incarnava i valori trasmessigli da Marco Aurelio, non da Erpatata. Eccoci qua, rientrati in diretta, e allora è il momento dell'economia. Soldi e dintorni. È il microfono di Alessandro, l'abbiamo sabotato finalmente. Ci siamo riusciti. Eccoci qua, no, siamo con Deborah. È ritornato. E allora, tentativo di sabotaggio. Esatto, fallito. No, tra l'altro, come dire, anche quello che è successo si presta un po' al tema che voglio affrontare stamattina, le tecnologie, caro Alessandro, il tema intorno al quale il microfono, possiamo subito cimentarci nel dimostrare alla popolazione mondiale la nostra ignoranza. Io e te siamo veramente gli emblemi dello zero. L'uomo antitecnologico. Ecco, perfetto. Non è neanche, sì, perlomeno sei iscritto a Facebook, ma so che non lo utilizzi per niente. Per niente. Social network, quindi vabbè, io non è che sia sono proprio appena mezzo gradino sopra di te. Sicuramente orientarci nel mondo del digitale terrestre è diventato un po' obbligatorio per tante famiglie, ma complicato per molte di queste. Noi torniamo a parlare perché vogliamo aggiornare i nostri ascoltatori questa mattina sugli sviluppi di questa parola bruttissima, ma che in realtà nasconde una trasformazione epocale per la tecnologia televisiva, lo switch over, il passaggio dal segnale analogico a quello digitale per tutta la televisione italiana. Peraltro questo tema è stato nei giorni scorsi al centro anche di un grande convegno che si è svolto a Milano, dove è stato fatto il punto della situazione, cioè questa trasformazione che sta avvenendo in quasi tutte le regioni italiane, sta toccando adesso alla Lombardia, al Piemonte orientale, ma per qualcuno ancora esattamente non si sa di che cosa si sta parlando e non si sa neanche che cosa fare del proprio apparecchio televisivo. Allora stamattina abbiamo riconvocato un amico di Soldi e Dintorni, ma anche di 2024 con Enrico Pagliarini e di altre nostre trasmissioni, Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia di Dei.it, esperto di audio video, elettronica di consumo. Gianfranco, buongiorno. Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori. E allora, il punto della situazione, da dove lo facciamo partire, Gianfranco, questa mattina? Facciamo il punto magari sulle regioni che stanno portando avanti questo cambiamento in questo momento. Ho detto bene Piemonte orientale e Lombardia? Sì, diciamo tutta la grande piana padana, anche la parte più nord dell'Emilia Romagna, quindi le province di Piacenza e di Parma, e un inizio del Veneto, quindi quello più vicino alla Lombardia, quello più occidentale. Questo perché ovviamente quando si opera su questi cambiamenti sono le antenne e sono quindi la conformazione orografica del territorio che fa le regioni, non sono le regioni politiche. E quindi si cambiano le frequenze, si cambia la tecnica di trasmissione in tutta la piana padana. Questa è la grande scadenza che ci vede adesso a cavallo dell'estate. Ecco, no, tra l'altro ho detto già un'imprecisione, perché in realtà queste regioni saranno interessate all'inizio dello switchover il 18 maggio, quindi non abbiamo neanche iniziato il processo di cambiamento. Dopodiché invece in autunno toccherà ad altre regioni del nord-est. Sì, in autunno intanto a settembre toccherà alla Lombardia e tutta la piana padana, allo spegnimento totale dell'analogico, quindi il cosiddetto switch off, e poi toccherà anche proprio alla tutta la parte del Veneto, all'Emilia Romagna il resto, e quindi alle altre regioni che sono interessate entro quest'anno, che ci vedrà arrivare al circa 68% della popolazione che verrà solo in tecnica digitale. Quindi direi che alla fine del 2010 più di 2/3 degli italiani verranno la TV solo in digitale. Tra l'altro nei giorni scorsi il vice ministro delle comunicazioni Paolo Romani ha detto, proprio in occasione del convegno che citavo prima, di stare valutando la possibilità di anticipare al 2011 il passaggio definitivo di Calabria, Sicilia, Umbria e Toscana al digitale terrestre. Tu hai fatto questa precisazione, Gianfranco, la differenza fra switch over, che è il passaggio, lo switch off, che è lo spegnimento totale del segnale analogico. Lo switch over, quindi il passaggio graduale, come sta avvenendo? Che cosa vediamo in televisione adesso? Avviene che praticamente scompare dalle frequenze analogiche tradizionali Rai 2 e Rete 4, quindi questo è il primo passaggio che avviene appunto per la Lombardia il 18 maggio prossimo, e poi viene seguito da un periodo cuscinetto che serve un po' a tutti per adeguarsi, chi non l'avesse ancora fatto, e nel caso della Lombardia a settembre si passa poi allo switch off, quindi lo spegnimento di tutte le trasmissioni analogiche. Questo significa che con i televisori attuali, se non si aggiunge un altro apparecchio, cioè un decoder esterno, o se non si cambia addirittura televisore, non si possono più vedere i canali televisivi. Quindi per chi fosse incappato in questa disavventura, chiamiamolo così, di non vedere questi due canali e si fosse chiesto il perché non tutti sono a conoscenza di questa trasformazione che sta avvenendo, ecco il motivo, lo abbiamo spiegato. Allora, ci dicevi Gianfranco che ovviamente ci dobbiamo trovare preparati all'avvento della nuova tecnologia digitale o acquistando un televisore dotato di decoder digitale incorporato. Da più di un anno ormai tutti i televisori sono provvisti di questo decoder, quelli nuovi che andiamo a comprare, oppure installare un decoder al proprio televisore. Che scelte stanno facendo le famiglie? Ma le famiglie si stanno più o meno dividendo, diciamo che in questo momento ci sono più o meno il 50% degli apparecchi di ricezione digitale sono dei TV col decoder integrato e il 50% sono dei decoder esterni. Che costi hanno, Gianfranco? Siamo a soldi e dintorni, dobbiamo dare anche qualche indicazione su questo. Ma il costo dei TV è il solito costo dei TV e viaggia da qualche centinaio di euro fino a chiaramente anche qualche migliaio per i modelli più grandi, più belli, mentre il decoder va a parte proprio dai modelli base intorno ai 29 euro, quindi cifre molto contenute, per arrivare fino diciamo a 100 euro per i modelli più belli, più sofisticati. Benissimo, chi possiede decoder e TV di ultima generazione, Gianfranco, è davvero certo di poter vedere tutti quanti i canali promessi? Questo sì, se nella stragrande maggioranza dei casi. In alcuni casi, soprattutto quando si hanno impianti di antenna di tipo condominiale, è necessario fare un piccolo intervento, una piccola revisione da parte dell'antennista, ma a livello di quella che sarebbe una classica manutenzione, quindi un intervento che non dovrebbe costare più di un 100-200 euro, non dovrebbe costare di più. Il tempo a nostra disposizione, Gianfranco, è terminato, ma magari gli ultimi 10 secondi vogliamo dedicarli a dare un'ultima informazione di servizio. La risintonizzazione dei canali sui nuovi televisori si avvia automaticamente? C'è bisogno di qualcuno che ci assista? Possiamo fare da soli? No, va fatta, è l'unica operazione che l'utente deve fare, sia sul TV che sui decoder esterni, è sia i giorni subito successivi allo switch over, sia i giorni subito successivi allo switch off, cioè un intero rimescolamento di tutte le frequenze e riposizionamento dei canali. Per vedere, per essere certi di vedere tutto, bisogna fare la risintonia, risintonizzare, semplicemente la sintonia automatica, fa tutto il TV o fa tutto il decoder. Nei modelli di TV e di decoder più attuali, diciamo quelli degli ultimi mesi, anche la numerazione dei canali avviene automaticamente. Benissimo. Questo è un grande aiuto, in modo tale che abbiamo le classiche RAI, poi i canali Mediaset. Comunque, insomma, poi il processo è mediamente guidato. Grazie al nostro esperto Gianfranco Giardina, buona giornata Gianfranco, arrivederci, buon lavoro. Noi ci fermiamo, adesso ridò la linea ad Alessandro Milan, vi ricordo che oggi a Salvadanaio alle 12 c'è Roberta Pellegatta, ringrazio in particolar modo Alessandro Longoni che mi ha aiutato in questa scaletta, perché è un tema che io non mastico molto facilmente, per cui buona giornata a tutti. Grazie, grazie Deborah, e ovviamente ci ritroviamo lunedì, noi parliamo di politica tra poco, Berlusconi ha detto le inchieste, insomma la vicenda Scajola, l'inchiesta Verdini, sono gli attacchi di alcuni politici, scusate, alcuni magistrati politicizzati, che ne pensate, siete d'accordo con questa visione? Dovete votare su radio24.it. Quando sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, e allora parliamo del sondaggio di oggi, il nostro sondaggio di oggi, torniamo a parlare di politica, insomma. Ieri Berlusconi, conversando con i giornalisti, ha detto: io non ho mai parlato di congiura, però c'è una colpa di una magistratura politicizzata, alcuni magistrati politicizzati. Siete d'accordo con questa frase? Questo è il nostro sondaggio di oggi. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E c'è da dire, per ora su radio24.it vi state dividendo, il 54% di voi dice di sì, insomma, comunque votate lì. Ne parliamo con Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, buongiorno Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Così come saluto Mario Valducci del Popolo della Libertà, presidente del Club della Libertà, anche uomo molto vicino a Berlusconi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Valducci. A lei e a tutti gli ascoltatori. Senta Di Pietro, io voglio partire da lei perché insomma lei fu uno dei protagonisti di Tangentopoli, e su tutti i giornali oggi si dice c'è il clima di una nuova Tangentopoli. Giampaolo Pansa dice se scoppia ancora Tangentopoli, povera Italia. Lei lo percepisce questo clima? Io penso che ci sia una nuova Tangentopoli ancora più grave della precedente, perché quella precedente poteva essere scoperto essendoci i mezzi per scoprirla. Non vorrei che ancora oggi, ma in effetti così sta avvenendo, che ancora oggi si voglia far passare come singoli mariuoli coloro che si stanno appropriando di stanno commettendo dei reati o sono sotto gli occhi della magistratura per verifiche appunto in questo senso. Io credo che in questo momento, proprio per evitare che ciò accada, Parlamento unito, governo e le istituzioni debbono adottare delle ferree regole per contrastare la corruzione e non delle leggi che invece alimentano la corruzione o impediscono ai magistrati di indagare. È questa l'accusa politica che io mi sento di fare a questa maggioranza, a questo governo, perché di fatto fa delle leggi che servono ad alcune persone per sfuggire alle indagini e ad altre persone per garantire l'impunità. Ha sentito Berlusconi dire non c'è congiura, però alcuni magistrati si sa cosa fanno, no? Sono politicizzati. Il si sa è un'affermazione gratuita e senza senso. No, si sa lo dico perché, io, insomma. Ecco, però. Allora, il si sa è un'affermazione gratuita e senza senso, che a forza di lanciarla nell'iperspazio della comunicazione, alla fine si cerca di convincere anche i cittadini. Che possa esserci in mezzo a ogni categoria una mera marcia, questo è in dubbio, cioè tra chi fa il barbiere, tra chi fa il fruttivendolo, chi fa il magistrato, chi fa il parlamentare e quant'altro. Il problema di fondo è che le mele marce vanno messe fuori, ma non va fermata l'azione della giustizia e della magistratura, facendo credere, contrariamente al vero, che quel che è stato accertato con l'inchiesta Mani Pulite o quel che viene accertato oggi è frutto solo della mente malata di magistrati che stanno impazzendo e non invece di amministratori pubblici di tutti i partiti, di tutte le categorie, dall'assessore fino all'esponente di governo, che approfittano della loro funzione per commettere dei reati. Allora, onorevole Valducci, eccoci qua, il rapporto tra politica e magistratura è sempre conflittuale, no? Da quella stagione di Tangentopoli. Ancora un po' un leitmotiv che viene rilanciato ogni tanto dal Premier è questo, della magistratura politicizzata. Perché batte molto su questo tasto? Beh, comunque non c'è dubbio che ci sia una quota anche minoritaria all'interno della magistratura che fa politica e giudica gli altri, e questo è un fatto gravissimo, l'abbiamo potuto leggere, constatare e conoscere in più casi che hanno riguardato i processi a Berlusconi, dove giudici hanno fatto vere e proprie campagne elettorali in modo aperto, partecipando a convegni, a dibattiti politici. Questo è un atteggiamento pubblico che i giudici, che hanno in mano la libertà di tutti noi, perché possono, diciamo, togliercela e sono gli unici soggetti a poterlo fare, devono essere particolarmente attenti e quindi non manifestare mai, né in pubblico, né in convegni, né in dibattiti, la loro volontà politica e il loro indirizzo politico. Questo è accaduto, accade, e quindi non si può negare quella che è un'evidenza del tutto chiara. Però l'accusa mi sembra un po' più pesante, cioè quella di fare non tanto di esprimere idee politiche, ma di fare inchieste, insomma, per volere abbattere una maggioranza politica, insomma, ma guardi, messa sì, così noi è più, siamo è più convinti forte. Che non ci troviamo in un'altra Tangentopoli, anche perché se uno poi dovesse analizzare un po' più in dettaglio quello che è apparso sui giornali, perché meno personalmente sono in grado di leggere solo quello che appare sui giornali, siamo assolutamente in ben altre situazioni rispetto allora. Ci tengo a sottolineare il fatto che le mele marce, se ci sono, è giusto che vengano condannate qualora effettivamente ci siano delle prove a sostegno, e chi invece non lo sia non sia soggetto alla gogna mediatica. Ricordo, perché questa è un'impostazione che noi assolutamente rimandiamo al mittente, che le mele marce sono presenti un po' in tutti i soggetti politici, non c'è, diciamo, il partito degli onesti e il partito dei disonesti, quindi penso che anzi dovrebbe essere un compito della politica con la P maiuscola, quella ad esempio di andare sicuramente a verificare nelle aule parlamentari il disegno di legge sulla corruzione approvato dal governo e controfirmato dal presidente Napolitano, che verrà nelle aule parlamentari, deve essere però scevro da preconcetti ideologici. Lei ha detto no, che qualora sia in anticipo munito di, diciamo, di ideologia rispetto a combattere gli uni o gli altri avversari politici, poi diventa veramente impossibile affrontare nel merito. Lei ha detto non c'è il partito degli onesti. Io vorrei sentire che pensa Antonio Di Pietro, non so se ha già visto i giornali oggi, ma Il Giornale mette in prima pagina questa notizia, io l'ho letta in rassegna stampa: il sindacato pagava la casa a Bersani, una vicenda del 91 in cui Bersani sarebbe fatto pagare 1 milione di lire d'affitto, metà dalla CISL. CISL per un paio d'anni. Ora, la vicenda pare abbastanza accertata anche da alcuni bonifici pubblicati, però c'è il rischio, secondo lei, Di Pietro, di voler buttare un po' tornando anche a quello che è successo la rissa Sallusti D'Alema, voler buttare un po' nel polverone, come dire, ma vedete che così fanno tutti? A parte il fatto che se lo fanno più di una persona non è che l'illecito diventa lecito, sempre l'illecito è, non è che uno che ammazza una persona dice ma l'ha ammazzato pure l'altro, quindi sono sempre due morti, non è che non c'è manco un morto, quindi questa è una, così, è una giustificazione abbastanza singolare. Ma detto questo, il problema di fondo non è che l'ha fatto quello o l'ha fatto quell'altro, il problema è che ognuno deve lasciarsi giudicare, lasciare ai magistrati fare il proprio dovere. C'è questa verifica che hanno fatto, a me ne hanno fatto mille di verifiche, sono stato sempre prosciolto. Allora il problema di fondo non è che io me la devo prendere col magistrato che ha indagato, devo correre dal magistrato a dare le mie spiegazioni e a dare le mie giustificazioni. Io quello che non condivido è il fatto che rispetto a un'indagine in corso la colpa è del magistrato che fa l'indagine. Se uno non ha nulla da temere, quello che deve fare, deve correre dal magistrato, specie se ha una funzione pubblica, specie se ha un'altissima funzione pubblica, deve correre dal magistrato e farsi giudicare, perché sapendo di avere delle ragioni da poter dire, dare, giustificare, va dal magistrato e torna ad amministrare la cosa pubblica. Ma da questo punto di vista, invece che si va in Parlamento e si fanno delle leggi per non farsi processare. Da questo punto di vista lei avrà ammirato, se non altro, il gesto di Scajola, che neanche indagato si è dimesso. Cioè voi avevate chiesto le dimissioni e lui si è dimesso e non è arrivato neanche un avviso di garanzia. Io voglio dire, qui se permette, questo l'ho fatto io prima ancora di Scajola, quando è successo a me facevo il ministro di infrastrutture nel 96, quindi capisco bene la sofferenza che ci può essere in queste soluzioni personali, ma proprio perché l'ho fatto anch'io, dico che una persona che si trova in quelle condizioni, in quella situazione, non è che può aspettare la soluzione giudiziaria, c'è una garanzia di trasparenza che deve dare il suo operato, deve una garanzia di serenità che deve dare al governo di poter continuare a operare e deve correre dal magistrato a dare le sue giustificazioni. Per cui questo, quello che deve essere fatto in questo momento, non è pensare che fino a quando non c'è il magistrato che mi ha condannato con sentenza penale passata in giudicato non è successo nulla. Ci sono delle responsabilità politiche che vanno affrontate nell'immediatezza dei fatti, e per Scajola vi era la necessità di dover giustificare, anche perché all'inizio non è che l'abbia giustificato molto bene, ancora adesso è tutto da capire questa situazione, da giustificare una posizione per cui era impossibile mantenere anche il ruolo di ministro. Ma lo dico per Scajola, l'ho detto per me nel 96, quindi non è che lo sto dicendo per criminalizzare. Allora, tra l'altro, Scajola si è dimesso, Verdini invece dice, Scajola si è dimesso non indagato, Verdini invece indagato per corruzione. Ma da che cosa si doveva dimettere, scusa? Non ha incarichi di governo, però vorrei chiedere, onorevole Valducci e Verdini, anche detto non avranno un'altra testa che rotolerà, insomma, questo sarebbe, no, un po'. Guardi, io rimango a quello che ho letto sui giornali e ribadisco la mia contrarietà a fare, diciamo, i processi leggendo i giornali e i processi mediatici. Vorrei veramente più sentenze. Detto questo, mi sembra che nel caso di Verdini sicuramente sia indagato, come abbiamo letto, ma che poi non emergono. Adesso sto facendo un ragionamento politico dalla lettura dei giornali, perché a questo ci dobbiamo limitare, responsabilità tali per cui uno debba dimettersi, peraltro avendo lui incarico di partito e non incarichi istituzionali. Quindi penso che sia giusto che lui continui a svolgere la sua attività politica, la sua funzione politica all'interno del PDL, e che chiaramente mi sembra che sia già andato dai pubblici ministeri di Firenze e andrà, quando chiamato, anche da eventuali altri pubblici ministeri per chiarire la sua posizione, per cui mi sembra diverso. Io vorrei qui ribadire e risottolineare comunque l'alto senso del rispetto delle istituzioni che il ministro Claudio Scajola ha ancora dimostrato una volta in questa fattispecie, quindi penso che questo vada riconosciuto, e questo testimonia come ci sia anche da parte nostra una valutazione che non è solamente legata agli atti e fatti giudiziari, ma anche una valutazione politica. Quindi massimo rispetto, insomma, a un politico che ha sempre dimostrato, peraltro in passato, quando ha avuto altre vicissitudini giudiziarie, di riuscire sempre pulito. Allora, 800 24 00 24, ci sono tanti ascoltatori, vediamo se prima nel traffico ne diamo un paio. Andrea da Livorno, buongiorno. Buongiorno a lei, dica. E complimenti per la trasmissione. Dica. Io volevo dire velocissimamente che In linea di massima ha ragione il dottor Di Pietro. L'unica cosa che mi puzza un po' questo discorso del non so se lui non si sia questo problema di questa giustizia e di queste incriminazioni a orologeria, soprattutto nei confronti di alcune persone. A orologeria che vuol dire? A orologeria di che? Cioè nel senso... Proprio diciamo in vista delle elezioni ci sono puntualmente delle indagini e delle inchieste aperte su... poco prima delle elezioni. Adesso le elezioni sono passate, almeno le regionali. Perché Scajola non è stata inquisita? Dal mio punto di vista per il semplice fatto di non dargli l'accesso agli atti in modo che lui si possa difendere. Lei dice giustizia e orologeria. Sentiamo Nicola dalla provincia di Torino. Sì, buongiorno. Dica. Il mio intervento è solo da uomo della strada, no? Un Berlusconi che continuamente, ogni volta il ritornello è la colpa dei magistrati, inteso come classe generale, poi lui magari ne individua alcuni politicizzati, però fa di tutto il cesto una mela marcia. E anche la politica da uomo della strada è veramente piena di mele marce, no? Sono meno le mele mature in politica. Questo ritornello mi ricorda quello dei bambini che a scuola, dei ragazzini che a scuola abbiamo vissuto tutti, ogni volta che pigliavano un brutto voto al compito in classe la colpa era dell'insegnante. E com'è che gli altri compagni invece rimanevano promossi e loro magari ci vedevano 7-8 anni? Ora Berlusconi ha avuto una fortuna non da poco su delle basi che sono tutte, anche lì sarebbe bello fare un'indagine approfondita, però credo che di fronte a certe evidenze non si possa ripetere sempre il solito ordine. Vabbè, non le piace insomma questo refren che viene riproposto. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, colpa di una magistratura politicizzata? Siete d'accordo con quello che sta avvenendo? Devo dire che il 60% però dice di sì, votando su Radio24.it. Antonio Di Pietro, perché lei ieri si è appellato addirittura a Fini? Un paio di giorni fa ha chiesto le elezioni. C'è anche questo spettro, questo clima in arrivo? Io mi auguro per il bene del paese che alle elezioni si possa andare al più presto possibile, perché credo che proprio questa è l'unica soluzione per evitare che accada una nuova Tangentopoli, perché si sta allargando a macchia d'olio questa situazione anomala di una miriade di amministratori, uomini di governo, parlamentari che hanno gravissimi problemi di giustizia, per cui in Parlamento non si sa più se i provvedimenti che vengono presi nell'interesse della collettività o per la salvaguardia della propria impunità. E proprio così è successo l'altra volta, quando al discorso di Craxi in Parlamento, che ha chiamato tutti dicendo a tutti che si erano tutti colpevoli, bisognava fare quadrate intorno a lui, poi il risultato è che è caduto tutto il sistema dei partiti ed è crollata la Prima Repubblica. E questa è la ragione per cui io ritengo che bisogna andare alle votazioni con una norma ben chiara, o meglio con due norme ben chiare: primo, la non candidabilità delle persone condannate; secondo, la non possibilità di assunzione di incarichi di governo centrale o locale, da assessore a ministro, di persone sotto processo. Questo per garantire appunto che in Parlamento e al governo, a destra come a sinistra, perché ha ragione il collega Valducci quando diceva che qui non esiste il partito degli onesti e dei disonesti, ci sono onesti e disonesti in tutti i partiti ed è pericolosissimo che questa avvenga e può avvenire a tutti quanti, dall'Italia dei Valori fino a Forza Italia. Proprio per evitare questo noi dobbiamo stabilire delle regole di accesso da parte dei parlamentari, che devono rappresentare il meglio della società e non quella di cui insomma, più ma lei dice un voto per evitare Tangentopoli, ma l'idea, mi pare di capire che lei quasi dica ci vorrebbe una nuova pulizia, una nuova Tangentopoli che pulisca la politica, che poi si può anche vedere se l'ha pulita veramente, insomma. Questa è... Io sto dicendo che per pulire non l'ha pulita veramente, proprio perché mancava la regola che io ho indicato prima, perché io li ripeto ancora in Parlamento come nelle istituzioni, tutte persone che magari condannate già più volte le ritroviamo nei posti in cui già stavano prima a fare le stesse cose. Io credo che bisogna stabilire una regola, che chi fa politica non può utilizzare la politica per farsi gli affari propri, e chi viene preso con le mani nella marmellata in questo debba non più fare politica. Se si stabilisce questa regola, che deve valere per tutti, e ripeto, non è che questo è un attacco al centrodestra e contro a favore del centrodestra, perché torna a ripetere qui il più buono c'è la rogna. Più buono c'è la rogna, onorevole Valducci. Senta, ma mi spiega lei che vuol dire la giustizia e orologeria? Ogni tanto anche lei, quando l'abbiamo chiamata, dice c'è un po' questa sensazione di giustizia e orologeria. Sì, di che cosa? Negli ultimi casi non mi sembra che siamo nella fattispecie. La giustizia e orologeria... Magari poco prima delle elezioni. in occasione delle campagne elettorali è scattata più volte. Io voglio solo ricordare che in questi 16 anni interventi della magistratura hanno fatto cadere due governi e per quelle azioni della magistratura i presunti colpevoli sono risultati innocenti senza aver non solo commesso il fatto ma estranei alla vicenda. Mi riferisco al caso del 94 di Silvio Berlusconi, al caso del 2008, dove adesso dovremo ancora sapere come andrà a finire il processo che ha riguardato la moglie del Ministro di Grazia e Giustizia. Quindi mi sembra ovvio da questi due episodi, io ho citato solo questi due episodi, che sicuramente c'è stata dal 92 in poi un'invasione di campo da parte di alcuni settori della magistratura rispetto alla politica. Detto questo, per riferirmi anche a quanto ha commentato l'onorevole Di Pietro, diciamo che il Parlamento oggi ha una maggioranza, mi sembra abbastanza solida, anche nell'ultimo voto di fiducia l'ha dimostrato, ha il dovere di continuare a operare. Mi sembra, come ricordavo nel mio primo intervento, che siano due situazioni molto diverse tra il 92 e oggi non siamo di fronte a una vera e propria tangentopoli. Mi sembra che spesso vengano coinvolti i settori dell'amministrazione pubblica, quindi un obiettivo comune dovrebbe essere quello di rendere più trasparente i processi di rilascio di autorizzazioni di concessioni da parte sia delle istituzioni locali che nazionali. Per far questo abbiamo la necessità, a mio modo, di implementare molto il sistema delle telecomunicazioni, della cosiddetta banda larga, perché noi dovremmo arrivare all'obiettivo di fornire la possibilità a chi fa una domanda di autorizzazione di concessione, di sapere subito, cittadino e impresa, di verificare dov'è la sua domanda, in quale cassetto è ferma e quant'altro. Vediamo ancora due ascoltatori. Carlo da Pavia, buongiorno. Provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, volevo intervenire per dare un giudizio sulla giustificazione che il Ministro ha dato. Io la trovo assolutamente inaccettabile. Cioè chi? L'ex Ministro forse si sta riferendo a Scajola? Sì, ben certo. E addirittura, anzi, penso che sia un insulto al comune buonsenso. Vabbè, siamo ancora, cioè la giustificazione è dire se qualcuno, se acclarassi che qualcuno mi ha pagato la casa, questa è la giustificazione che non le sta bene. Cioè, questo penso sia la cosa che ancora di più peggiori la situazione, perché vuol dire proprio avere un bassissimo senso dell'opinione pubblica. Va bene, Carlo, questo però è un tema, insomma, di certo ha suscitato molto, molto scalpore, molti commenti. È un tema però un po' fuori dal tema di oggi. Vuole andare a Treviso da Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo dire, niente, siccome ho avuto delle esperienze con la magistratura, dove per fortuna sono sempre stato giudicato in termini positivi, però ho visto come funziona. Quindi se io dovessi giudicare sulla base di quello che vedo sui giornali, sicuramente potrei pensare subito al fatto che Berlusconi o molti vengano indagati per motivi reali. Però mi sono reso conto che tante volte si parte dal presupposto sbagliato, cioè si parte da un'aggressione dove poi uno deve dimostrare la propria... Ma lei faceva politica? Cioè avevi tu vicissitudini politiche? No, non è una questione politica, però ho visto come lavora la magistratura. No, come lavora, cioè il presupposto sbagliato, cioè pensando che uno è subito colpevole, questo sta dicendo Andrea? Esattamente, per cominciare questo, e poi hanno delle normalmente dei sistemi di lavorare completamente diversi da quello del mondo reale. Cioè, va bene, quando un processo mi dicono di presentarmi all'ora di rito e non mi dicono di presentarmi alle 8 o alle 10. Va bene, insomma, queste sono un po' appunto riti che non vanno bene, ma questa è un'altra cosa. Di Pietro, ho 30 secondi, ha sentito, dice la magistratura parte, è lei che l'ha fatto il magistrato, parte con l'idea, quella è colpevole. Beh, voglio dire, per definizione il procuratore della Repubblica quando riceve una notizia di reato deve accertare non che è colpevole ma come sta la verità, dopodiché io vi posso assicurare che se alla fine dell'indagine si deve chiedere un proscioglimento è una buona ragione anche per il magistrato che si sente soddisfatto di questo. Questa idea che i magistrati per definizione vogliono mandare le persone in galera non è vera. Il magistrato è stato chiamato a fare questa funzione per accertare la verità dei fatti, e se la verità dei fatti porta alla necessità innanzitutto di fare un approfondimento attraverso l'istruttoria e poi di fare un processo, rientra nella fisiologia delle cose, non nella patologia mentale di un magistrato che è insano di mente. Lei sa che se passasse quella sua cosa, cioè non far votare, non far rieleggere chi... Scajola potrebbe essere candidabile, non ha avuto nessun avviso di garanzia. Candidabile sì, fare il ministro poi no. Vede, il problema di fondo, torno a ripetere, oggi, qui non sto facendo la questione di Scajola, oggi sì. In Parlamento, piaccia o non piaccia, ma il 12% dei parlamentari ha problemi di giustizia, lo sanno. Lei sa che ci sono persone condannate più volte e ci sono addirittura persone che sono in carica a questo governo con provvedimenti di cattura per fatti di criminalità organizzata, in corso, provvedimenti di cattura che se non facesse il parlamentare sarebbero già eseguibili. Sì, dice sottosegretario Cosentino, immagino. No, ma guardi che, guarda, per essere chiaro, in questo momento ci sono parlamentari di destra e di sinistra con provvedimenti di cattura in corso. Quindi no, ha ragione, l'unica, io no, su una cosa sono d'accordo con l'onorevole Balducci di prima. Qui non è una questione di destra o di sinistra, semmai la mano destra e la mano sinistra, ma è sempre la mano che acchiappa. Ci fermiamo, grazie all'onorevole Balducci, all'onorevole Di Pietro per essere stati con noi. 62% per ora è a favore delle parole di Berlusconi. Continuate a votare su radio24.it e ringraziando Sara Sperafico in redazione, Peter Bescapè in regia, dalla linea Oscar Giannino ci porterà in Gran Bretagna le elezioni oggi.